nei tramonti futuri noi saremo vecchi dal passo lento e dall'alito cattivo. Nei tramonti futuri noi saremo vecchi dal passo lento e dall'alito cattivo. Nei tramonti futuri noi saremo vecchi dal passo lento e dall'alito cattivo. Ogni giorno è pari di te, sembra consumarsi in un attimo. Dimmi che non penserai più, dimmi che allontani chi chiede chi sei tu. Tutto quello che hai, credi che sarai quello che farai. Dimmi che rinuncerai a te, dimmi che sei parte di un tutto che non è. Parte di te sembra consumarsi in un attimo. Dimmi che non penserai più, dimmi che allontani chi chiede chi sei tu.